Agar, la serva che fece una scelta sbagliata. Agar proseguì faticosamente sul sentiero occidentale. Aveva i piedi gonfi e le dolevano le caviglie. Le cuciture della sua veste lunga erano lacere e strappate. Il cuore le batteva forte per lo sforzo del suo lungo viaggio. Gli occhi le bruciavano abbagliati dal sole ardente. Il deserto in cui camminava giorno dopo giorno non offriva protezione. Durante il giorno il calore tremendo saliva dalla sabbia come un vapore e il forte vento le portava la polvere nella bocca e nel naso. Di notte la temperatura scendeva bruscamente e la terra diventava freddissima. Nonostante i rischi, Agar continuò con decisione il suo cammino verso l'Egitto, la sua terra natia. Voleva tornare dove Sara ed Abramo, come furono chiamati più tardi, l'avevano comprata, circa 25 anni prima, per poi portarla in Canaan come schiava. Mentre camminava, rifletteva sugli anni trascorsi. Erano stati anni buoni, anche se schiava, aveva goduto una vita piacevole. Dopotutto, pensò, sono stata privilegiata di aver vissuto con Abramo e Sara, con il quale Dio ha addirittura fatto un patto speciale. Attraverso il loro esempio lei era venuta a contatto con il Dio vivente. I bei ricordi del passato non suscitarono nella mente di Agar alcun pensiero di gratitudine. Tutt'altro. Sentiva di aver subito un torto, sentiva di essere stata insultata ed era avvilita. Stranamente, la sofferenza di Agar era la conseguenza di una situazione infelice nella famiglia di Abramo. Quando egli, dalla terra situata fra i fiumi Eufrate e Tigri, si era trasferito in Canaan, l'Eterno gli aveva promesso un figlio. Dio aveva detto ad Abramo che, mediante quel figlio, egli sarebbe diventato il padre di una moltitudine di nazioni. Ma gli anni passavano e il figlio non arrivava. Sara, preoccupata per questo, pensò che il figlio promesso dovesse nascere da una concubina, una seconda moglie, anziché da lei stessa. Infatti, un bambino nato da un'unione secondo questo accordo veniva considerato legalmente figlio della vera moglie e come tale un erede a tutti gli effetti. Per realizzare questo piano Sara pensò ad Agar, che godeva di una posizione favorevole nel cerchio familiare. Così Agar diventò la seconda moglie di Abramo e, non molto tempo dopo, gli diede la lieta notizia. «Sono incinta!» Prima della gravidanza di Agar, Abramo, visto che non aveva figli, aveva considerato come proprio erede legale Eliezer, il capo dei suoi servi. Ma, forse, ora, attraverso Magargar, si stava presentando il figlio che Dio gli aveva promesso. Abramo non aveva nessun motivo di aspettarsi un erede nato da Sara. Fino ad allora, infatti, Dio non gli aveva mai detto chi sarebbe stata la madre. Ci vollero ben 13 anni prima che Dio glielo rivelasse. Ben presto fu evidente che Sara era stata spinta da una motivazione puramente umana. Non venne mai chiesta la benedizione di Dio su Agar, né le fu data. Impaziente e dubbiosa riguardo alla capacità di Dio di risolvere la sua situazione, Sara aveva scelto la propria via d'uscita, davanti alla quale Abramo aveva ceduto troppo frettolosamente. Non è da meravigliarsi se la pace di Dio aveva abbandonato quella casa. A quei tempi una donna senza figli era disprezzata da tutti. Purtroppo, Agar non si lasciò mai scappare neanche un'occasione per comunicare tali sentimenti a Sara. Allora, come anche oggi, poche cose tanto subdole eppure si trasmettevano così chiaramente come i sentimenti di una donna verso un'altra. Sara, a sua volta, reagì alle comunicazioni non verbali di Agar. Anche lei conosceva le sue armi e anche il modo di adoperarle. In qualità di padrona, lei aveva tutelati i primi e i più antichi diritti, in virtù delle leggi vigenti. Tuttora Agar rimaneva il suo possesso personale che lei poteva trattare come voleva. Neanche Abramo poteva impedirle di usare il suo potere per umiliare Agar. Infatti, lui non poteva avvicinarsi a quest'ultima senza il permesso di Sara, però è comprensibile il dolore di Sara per l'atteggiamento della schiava. Questo dolore spiega in parte il terribile trattamento di Sara nei confronti di Agar. La comprensione per il conflitto interiore di Sara, tuttavia, non rendeva più facile ad Agar l'accettazione dell'umiliazione inflittale. Agar, stanca del trattamento di Sara, infine perse la pazienza. Senza chiedere permesso, fuggì nel deserto. In questo rimase fedele al suo nome. Agar, infatti, significa letteralmente fuga. Sapendo bene che lei e il suo bambino non ancora nato rischiavano di morire, uscì di nascosto dall'accampamento. Da sola e senza cibo, era conscia della possibilità di non giungere mai alla sua terra natia. Forse il suo bambino non avrebbe mai visto la luce del sole. Ma doveva provare. Istintivamente cominciò a camminare verso il sud sulla strada lunghissima verso l'Egitto. Più andava avanti, più si rendeva conto dei pericoli. Aveva abbandonato una comunità sicura per affrontare un deserto interminabile e inospitale. Non si vedevano né uomo né bestia per chilometri interi. Nessuno la poteva aiutare. Ad un certo punto, nella zona nord-est della penisola del Sinai, Agar giunse ad una sorgente nel deserto lungo la strada per Shur. Quest'oasi le offrì ristoro e riposo, ma non calmò i suoi bisogni interiori. Sola, priva di sicurezza e di amicizie, dal più profondo del suo essere, gridò al Dio di Abramo, l'unico che la poteva salvare, e scoprì che egli non l'aveva abbandonata. Quel puntino umano che si muoveva tanto lentamente lungo il terreno deserto ed accidentato del Sinai non era sfuggito alla sua attenzione. Egli aveva tenuto d'occhio Agar proprio come continua a fare con tutta l'umanità. Agar la chiamò forte e per nome. Egli sapeva molto bene chi fosse. Ancella di Sara, aggiunse, sottolineando che ai suoi occhi la donna era ancora l'ancella di Sara. Egli non cominciò la conversazione con un rimprovero, per quanto le circostanze lo permettessero. «Da dove vieni? E dove vai?» le chiese poi. Era un approccio disarmante, che offriva ad Agar la possibilità di esprimere liberamente il proprio pensiero. A parlare era Gesù Cristo, il quale durante la sua vita terrena avrebbe usato lo stesso approccio con altre donne colpevoli, vincendone i cuori. Gesù Cristo stesso si stava presentando a lei nella persona dell'angelo dell'Eterno. Era una delle apparizioni del Signore Gesù nell'era del Vecchio Patto, prima della sua incarnazione. Più avanti, egli si sarebbe rivelato nello stesso modo ad Abramo, il padre di tutti i credenti, e a Mosè, mediatore della legge. Nella Bibbia, entrambi sono chiamati amici di Dio, sia il patriarca Giacobbe, sia Gedeone, eroe della fede, sarebbero stati grandemente impressionati incontrando Cristo in circostanze simili. Ma il primo incontro, documentato fra Cristo e una persona, risale alla storia di Agar, molto prima che egli venisse in terra per redimere l'umanità. Una giovane donna straniera, che non apparteneva al popolo di Dio, madre di un bambino non ancora nato, si era presentata a Dio nel suo estremo bisogno. L'Eterno Dio, in risposta, le mostrò la via della liberazione. Con umiltà e pentimento, lei ubbidì e si volse per tornare all'accampamento di Abramo. Il suo peccato, come quello di Eva, era l'orgoglio. Rinunciando al suo orgoglioso spirito di ribellione e alla sua indipendenza ostinata, Agar tornò dalla sua padrona, Sara. Anziché imporsi e dichiarare i suoi diritti, Agar si dovette abbassare. Il Signore stesso le aveva dato esempio di umiltà quando si era chinato per parlarle. Più avanti, egli si sarebbe umiliato molto di più, per fornire al popolo peccaminoso un'alternativa alla morte. Egli avrebbe dato una vita nuova a tutti quelli che avrebbero creduto in lui. Dio, che dà benedizioni particolari a coloro che hanno avuto il coraggio di abbassarsi, onorò l'ubbidienza di Agar. Il bambino che è in seno è un maschio, disse. Tu lo chiamerai Ismaele. Quel nome significa Dio sente. Tu avrai una grande progenie, Agar. Così grande che non si potrà enumerare. Il bambino che aveva in seno non sarebbe stato un uomo con il quale era facile andare d'accordo. Avrebbe avuto un carattere tempestoso e indomito. Ma come deve essersi rallegrata Agar in cuor suo? Alle parole rivoltele da Dio c'era ancora speranza. Invece di aspettarsi la morte, ora lei aveva una prospettiva di vita. Il futuro stava sbocciando per lei e per il suo bambino non ancora nato. Cristo aveva un piano per le loro vite, ed era sceso per condividerlo con lei personalmente. «Oh Dio che mi vedi!» esclamò con adorazione e venerazione, ma era nello stesso tempo impaurita ed intimidita. «Ho visto Dio!» «E sono ancora viva», pensò dopo che Dio l'ebbe lasciata. «Posso dirlo agli altri». Più tardi l'oasi con la sorgente dove aveva incontrato Dio fu chiamato Bir Lahai-Rai, che tradotto significa «il pozzo del vivente che mi vede». Agar aveva sperimentato il vero Dio che l'aveva veduta ed esaudita nel suo estremo bisogno. Per tutta la vita, senz'altro si sarebbe ricordata di questa esperienza con Dio. Ogni volta che pronunciava il nome di Ismaele, si ricordava del fatto. L'Iddio vivente aveva sentito e aveva agito. Passarono circa 17 anni. Ismaele era ormai diventato un giovanotto forte. Isacco, figlio della promessa, era nato e, avendo 3 anni, era finalmente giunto all'età dello svezzamento. Lo svezzamento a quei tempi era motivo di grandi feste, perché era considerato una pietra miliare nella vita del bambino. L'intera famiglia di Abramo e tanti amici dalle città vicine si radunavano per festeggiare e per vedere con i propri occhi il miracolo che Dio aveva fatto per Abramo e Sara. All'età di 100 anni lui e di 90 anni lei avevano ricevuto la benedizione di un figlio nato nella loro vecchiaia, il figlio della promessa, dalla progenie del quale sarebbe venuto il Messia. Ma l'atmosfera della festa non era completamente felice. Ismaele, il figlio maggiore, non poteva tollerare tutta l'attenzione riversata sul fratello più giovane e cominciò a schernirlo. In questo c'era naturalmente più di una semplice rivalità fra due fratelli. Ismaele, figlio di una nascita naturale procreato nell'incredulità e nell'impazienza, si sentiva inferiore a Isacco, il figlio della promessa. Non volendo accettare un posto di secondo ordine, Ismaele rifiutò di riconoscere la posizione privilegiata di Isacco. Ignaro delle promesse fatte da Dio alla madre nel deserto molti anni prima, Ismaele non poté accettare la sua posizione servile. Abramo amava tutti e due i ragazzi in uguale misura, come solo un padre può fare. Sara soltanto sapeva quale fosse la posta in gioco. «Manda via la serva e suo figlio», pretese da Abramo, «non gli permettere di condividere con mio figlio la tua eredità». Davanti a questa dichiarazione così forte da parte della moglie, Abramo rimase male e fu molto confuso. Mentre pregava, Dio gli dimostrò che la separazione dei suoi figli era necessaria. La linea patriarcale della tribù, che Dio aveva scelto come suo futuro popolo, Israele, sarebbe continuata attraverso Isacco. Lui solo era il figlio della promessa di Dio e sarebbe diventato l'avo delle future 12 tribù della famiglia. Da quel momento in poi, Abramo arrivò a capire che la differenza fra i suoi due figli doveva essere palese. Sara aveva ragione. Ma attraverso questa confusione rimase inalterata la promessa di Dio ad Agar, che la sua posterità sarebbe diventata grande. Come Isacco, Ismaele sarebbe diventato padre di una famiglia di 12 tribù, proprio perché era il figlio di Abramo. Così Abramo dovette mandar via Agar e suo figlio nel deserto. Dopo essere vissuta nella famiglia di Abramo per quasi 30 anni, fu costretta a partire. Mentre Abramo riempiva una borsa di acqua per Agar, si resero conto tutti e tre che il cibo e l'acqua per Agar e Ismaele non sarebbero durati molto a lungo. Nonostante ciò, il viaggio difficoltoso ebbe inizio. L'inevitabile successe troppo presto. Il rifornimento d'acqua si esaurì. E nonostante le loro ricerche frenetiche, Agar e Ismaele non riuscirono a trovare una sorgente. Ismaele, indebolito dal cammino e dalla disidratazione, fu il primo a cadere in terra esausto. Quando fu chiaro che il figlio sarebbe morto presto, Agar usò le poche forze rimaste per tirarlo sotto un piccolo cespuglio che lo riparasse. Fu l'ultimo servizio che poté rendergli. Avendo fatto tutto ciò che poteva per l'amato figlio, Agar non fu capace di sedersi e vederlo soffrire. Distrutta dalla fatica e dal dolore, si sedette a qualche passo da lui e pianse come se il suo cuore dovesse spezzarsi. Ad un tratto, sentì dal cielo la stessa voce familiare udita nel deserto così tanti anni prima. Ancora una volta l'angelo dell'Eterno le fece una domanda: «Che cosa c'è, è Agar?» «Non temere, Dio ha sentito la voce del ragazzo là dove sta. Alzati e sorreggi tuo figlio, dei suoi discendenti farò una grande nazione». Alzò lo sguardo e, grandemente sorpresa, vide un pozzo d'acqua fresca distante solo pochi metri. Si alzò con grande fatica e si affrettò per riempire la sua borsa. Con l'acqua che Dio aveva provveduto, suo figlio ricevette nuova vita. Per la seconda volta Gesù Cristo si era presentato ad Agar nella sua grande infelicità per salvare la vita a lei e al figlio. Di nuovo ci fu la promessa di un futuro pieno di speranza per Ismaele. Quando Ismaele fu cresciuto, sua madre andò in Egitto per trovargli una moglie. Con questo atto dimostrò di essere ancora estranea al popolo di Israele, nonostante tutto. I molti anni trascorsi vicino a Abramo e Sara non l'avevano cambiata completamente. Neanche l'apparizione del Signore Gesù ad Agar le aveva cambiato il cuore. Il Signore che lei aveva invocato nel momento del bisogno e che l'aveva aiutata non era diventato il solo Signore della sua vita. Non gli aveva permesso di possedere il suo cuore. Poiché Dio sapeva che lei avrebbe scelto gli idoli del suo passato, permise la sua partenza forzata dalla famiglia di Abramo. Anziché godersi l'esistenza sicura vicino ad Abramo, lei aveva scelto una vita nomade nel deserto. La scelta tremenda di Agar e Ismaele di imporsi, piuttosto che vivere per la fede nel Dio di Abramo, ha segnato l'intera storia del mondo. Ismaele divenne il fondatore delle nazioni arabe, mentre gli israeliti sono i discendenti di Isacco. L'inimicizia fra queste due razze continua al giorno d'oggi. Studio facente parte di 21 trasmissioni Donne della Bibbia, tratti da qualche parte e rivisti,